Tutta Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Andrea Corporati, uno dei curatori della docuserie Aria su RaiPlay da martedì 29 dicembre 2020. Andrea, ben trovato. Grazie, ben trovati a voi. Ci presenti questo progetto? È una docuserie in 6 puntate di circa 20 minuti su RaiPlay e nasce pochi giorni dopo l'inizio del lockdown a marzo con gli altri autori, con Daniele Vitali, Costanza Quadriglio. Soprattutto ci siamo chiesti come raccontare quello che stava accadendo, perché ci sembrava intanto utile ma soprattutto necessario, perché era ed è un momento terribile e di cambiamento molto profondo, al di là anche degli aspetti più evidentemente emergenziali, e quindi c'è nato il desiderio di testimoniare i mesi che sarebbero venuti, senza sapere ovviamente come sarebbe andata a finire. Essendo tra l'altro rinchiusi, non era possibile fare un documentario con i metodi tradizionali, cioè con una truppa andando in giro a raccontare la vita delle persone. Abbiamo dovuto cercare le persone italiane in giro per l'Italia e per il mondo e chiedergli di riprendersi da soli attraverso i mezzi che avevano a disposizione, cioè principalmente cellulari. Sotto ovviamente continuo rapporto con noi, però abbiamo cercato prima queste persone che fossero persone comuni, ma ognuna con una sua storia particolare da raccontare. Le abbiamo cercate attraverso giornali, social, conoscenze dirette o indirette, sentito dire, eccetera. Alla fine ne abbiamo individuati un gruppo e hanno cominciato a riprendersi giorno per giorno in un periodo che è andato da fine marzo fino a fine luglio, quindi le cosiddette fasi 1 e 2. In Italia e nel resto del mondo, ognuno seguendo insomma quello che accadeva. Il risultato è stato questo documentario, insomma, che anche per noi è stato una rivelazione, qualcosa di molto coinvolgente, perché di fatto è veramente un racconto corale, collettivo, che continua tuttora anche se noi non riprendiamo più, perché è proprio la testimonianza delle vite delle persone durante quei mesi, di come quello che stava accadendo cambiava la vita delle persone, ma la cambiava in profondo, anche perché abbiamo scelto di chiedergli di raccontarci appunto la loro parte privata, la loro parte emotiva, più che gli eventi che capitavano. E insomma, credo che sia una cosa molto nuova, almeno per me è stata molto nuova e devo dire molto coinvolgente. L'operazione di scelta proprio dei protagonisti com'è stata? Come dicevo, abbiamo cercato attraverso notizie di giornale, attraverso i social, attraverso anche Facebook, insieme a 5 giovani cineasti che sono coautori insieme a noi. Abbiamo fatto una ricerca molto vasta, che infatti è durata qualche settimana, e abbiamo individuato un gruppo di persone abbastanza largo all'inizio, alcuni poi si sono persi per strada, altri invece li abbiamo scoperti dopo, si sono aggiunti strada facendo. Però quello che cercavamo appunto erano storie umane, per dire. C'è una famiglia di Reggio Emilia che era rimasta bloccata in Brasile, come molti altri italiani, e non sapevano come tornare. Ci sembrava una storia da una parte interessante anche da un punto di vista di cronaca, però molto interessante da un punto di vista umano. Cioè erano comunque persone che erano tra l'altro andate in Brasile non per andare in vacanza, ma c'erano andati a febbraio per un parente che stava male, e lì siamo rimasti bloccati perché ieri non c'erano più e non sapevano come tornare. E lì poi sono entrati in contatto con l'epidemia in Brasile, che è stata, se possibile, anche più violenta che da noi, finché trovano il modo di tornare e ritornano a Reggio Emilia. Il loro ritorno a casa è una delle cose più belle del documentario, più commoventi, anche se è fatto di cose assolutamente semplici. E così come un altro personaggio abbiamo trovato, era una studentessa che vive, studia e lavora in Cina e che aveva già fatto di sua iniziativa una serie di riprese a partire da gennaio, che poi ha condiviso con noi, per cui raccontando proprio l'inizio dell'epidemia in Cina, sempre dal punto di vista di un'italiana. E anche lei è stata fondamentale, insomma abbiamo seguita attraverso tutti questi mesi. Tra l'altro la Cina un po' anticipava quello che accadeva in Italia, e poi anche cose, una volontaria della Croce Rossa Cristina a Roma che fa l'impiegata, e anche la volontaria della Croce Rossa che ha seguito tutta l'emergenza in ambulanza. Ma anche lì la cosa bella che lei ci ha dato era il racconto di come questa esperienza ha cambiato la sua vita di impiegata, il fatto di passare le notti in giro su un'ambulanza andando a correre a prendere pazienti quasi sempre molto molto gravi. Quindi questo era lo spirito. Tra l'altro non si crede sia un racconto triste, perché la cosa che all'epoca non sapevamo, ma insomma che è venuta fuori, è che sono tutti persone in movimento, cioè tutte persone che hanno, adesso dire, reagito è una cosa banale, però si sono messe in movimento. E pur se la prima parte della serie necessariamente racconta spesso persone chiuse in casa, e mentre la seconda parte, quando finisce il lockdown, insomma c'è tutto un grande anche movimento fisico attraverso le regioni e i paesi, però è un movimento proprio emotivo, spirituale, che viene fuori in modo molto semplice. Cito una cosa per tutti: c'è uno dei personaggi, un clown di un circo, che è rimasto bloccato a Caltanissetta, il circo, e quindi passano i mesi del lockdown, io sono in un parcheggio con il tendone afflosciato e passano questi mesi a inventare nuovi numeri per quando si riaprirà, forse non si riaprirà mai, non si sa, e alla fine però invece lo fanno questo spettacolo, lo mettono in scena e diventa qualcosa che non è solo uno spettacolo di un circo, cioè è proprio una testimonianza di come lo spirito umano, attraverso una piccola bellezza, no? Come può essere uno spettacolo di un circo, però non si ferma, non si rassegna e continua a fare anche cose inutili se belle. Aria, la docuserie a disposizione su Rai Play da martedì 29 dicembre 2020, un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Andrea Porporati. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Credi, e grazie di tutto. Con Tommaso D'Elia, regista del documentario Non rimarrò in silenzio, le verità di Mimmo Lucano, in streaming su Arcoiris TV gratuitamente. Tommaso, ben trovato. Grazie Fede. Allora, un lavoro di quest'anno, del 2020, ci racconti un po'? Abbiamo iniziato a lavorare a gennaio scorso sul documentario e poi abbiamo attraversato vari lockdown, insomma, quindi non è stato un lavoro semplicissimo. Molto interessante, c'è da dire che io conosco abbastanza bene la Calabria e anche la Locride in particolare, in generale l'Aspromonte, proprio perché ho dei cari amici con cui abbiamo fatto varie attività in Calabria, ma l'incontro con Mimmo è stato speciale. Calcola che noi abbiamo fatto così un'intervista, chiamiamola intervista, nel senso che Mimmo ci ha raccontato la sua vita, la sua storia, ha aperto un po' il suo cuore, quindi, come dire, ci ha un po' scelto, ecco, e siamo stati un po' sommersi da questa gigantesca emozione di quest'uomo un po' solo in questo piccolo paese un po' deserto, ritornato a quello che probabilmente è stato il vero gigantesco motivo per cui è partito il modello Riace, e cioè paesi che, come viene detto nel documentario, lo dice Ilario Amendolia, che è l'ex sindaco di Caulonia, ebbene, sono paesi che sono stati desertificati dalle migrazioni, dalla mancanza di possibilità di lavoro sul territorio. Quindi, come dire, il modello Riace ha acquistato una sua forza nel tempo proprio perché ripopolava interi territori. Calcola che solo nella Locride, solo in quel tratto di regione, ci sono stati più di 20-25 paesi che hanno praticato l'accoglienza. È chiaro che Mimmo, che è l'inventore di questa esperienza, poi è stato quello su cui si sono accaniti un po' tutti. E quindi questo è stato molto interessante anche per questo, insomma. Com'è la situazione oggi dopo la sua esperienza? Cosa resta di quel modello di Mimmo? Di quel modello di Mimmo esiste intanto il villaggio globale, che è sicuramente un insieme di case che hanno favorito l'accoglienza del paese. Alcuni immigrati hanno deciso di rimanere, sono intere famiglie con i bambini che continuano andare a scuola, insomma non si è riusciti a fare una tabula rasa. però devo dirti che non c'è solo Riace, ecco, in Calabria. Noi per esempio abbiamo visitato Sant'Alessio d'Aspromonte attraverso un giovane medico che si chiama Luigi De Filippis, che comunque fanno, c'è nella piana di Gioia Tauro Emergency con i suoi ambulatori, e poi c'è questa esperienza meravigliosa di Don Giacomo Panizza, che vive sotto scorta, che sta lì da 40 anni, insomma, che ha creato un insieme di cooperative. Il loro progetto assume in forma fissa, quindi con contratti veri, 180 persone, il che significa che stiamo in presenza di situazioni consolidate nei territori, gente che non deve implorare o attraverso le amicizie trovare un lavoro, lo trovano attraverso dei progetti sostenibili. Questo è molto importante, perché poi il documentario si è centrato fondamentalmente sulla parte post-storica e poi la vera e propria vicenda di Mimmo. Però ti dico, insomma, noi non abbiamo avuto così spazio per poter raccontare altro, ma c'è tantissimo altro in Calabria, proprio una Calabria che resiste fortemente, fortemente. Anche perché il suo è un modello che, appunto, come dicevi tu, ha delle solide basi alle spalle, insomma, c'è tutto un precedente storico. Ma sì, questa storia dello svuotamento di intere paesi, di una regione che ha conosciuto le migrazioni dai primi del Novecento, ha veramente prodotto una desertificazione del territorio, peraltro con una presenza dell'Ndrangheta che è fortissima, non è irrilevante. Quindi, non so, raccontiamo appunto episodi della fine degli anni 70, come Pepe Valeroti, l'agente del Partito Comunista che veniva uccisa nelle campagne perché facevano le cooperative che andavano contro l'agroalimentare della Piana, che è stato e ancora è abbastanza controllato dall'Ndrangheta. Quindi sono proprio episodi che si legano fortemente tra di loro, un po' come Peppino in passato, gente che aveva questa necessità, questo bisogno di prendere parte, di avere un ruolo che in qualche maniera raccontasse le realtà per come andavano in quel momento. Infatti Peppe Valeroti viene ucciso poi proprio perché si opponeva alle mafie agroalimentari. C'è una foto sul documentario bella di Pietro Ingrao che va ai funerali di Valeroti, e i funerali erano con migliaia di persone. Quindi sì, c'è questa necessità di non andare via, di rimanere sul territorio. Il problema è come ci si rimane. Mimmo ci ha provato e il suo era un progetto bellissimo. Infatti un'altra figura molto importante nel documentario è quella del vescovo Bregantini, che arriva a metà degli anni 70 a essere vescovo della Locride, e la prima cosa che riceve, infatti si vedono queste immagini, è una bella falsa bomba sotto il suo palco, e il magistrato incaricato di turno in quel momento, che va con i carabinieri su questa falsa bomba, è Gratteri da giovane. Voglio dire questo perché nel film c'è anche un'altra cosa che è molto importante, che è stata una ricerca molto molto impegnativa dei materiali d'archivio. Su questo devo ringraziare sia Med Media, che è un archivio storico calabrese importantissimo, che l'AMOD, che ci hanno dato alcuni materiali di repertorio. Comunque nel film c'è una grande ricerca sul materiale di repertorio. Non rimarrò in silenzio. Le verità di Mimmo Lucano in streaming su Arcoiris TV. Un saluto e un ringraziamento al regista Tommaso D'Elia. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie a tutti voi, ciao. Con Domiziana De Fulvio, regista del documentario Sisterhood, online fino al 3 gennaio 2021. Domiziana, ben trovata. Ciao, grazie, ciao a tutte e a tutti. Come lo descriveresti questo lavoro? Un lavoro molto personale, direi. Di cosa si parla? Allora, è un racconto in cui il tema principale è la sorellanza, e a raccontarci le varie sfaccettature di questo termine sono tre squadre di basket non professionali di Roma, della SNIA e di ragazze palestinesi ma che vivono nel campo di Shatila in Libano a Beirut, e delle ragazze americane ad Harlem a New York. Quindi tre contesti molto differenti fra loro ma con delle similitudini. Com'era nato il progetto? Inizialmente era nato solamente per raccontare, cioè quello che volevo, e che cercavo qualcuno che lo facesse. Volevo solamente fare, come dire, da organizzatrice, così, il lavoro che delle ragazze palestinesi, perché insomma, quando l'ho conosciute mi ha molto colpito la loro squadra, insomma, la loro storia. Poi per altri motivi ho conosciuto anche le altre due squadre e ho iniziato quindi a pensare a questi legami così forti che si instaurano in età adulta, e come per tante sono delle rivendicazioni. È quasi un'azione politica quella che si fa in campo e fuori in questi gruppi. Insomma, mi ha iniziato a affascinare i vari approcci, e per quello ho pensato a queste sorelle sparse per il mondo che senza conoscersi stavano creando qualcosa di interessante. Su cosa hai voluto centrare l'attenzione e lo sguardo? Ho cercato magari di vedere più il lavoro corale che fanno, e magari invece siamo rimasti un po' fuori nelle intimità delle singole, si è dato più spazio appunto al lavoro di gruppo. Cosa ti ha impressionato di più? Che immagine è venuta fuori? Che contesto è venuto fuori? Penso forse che i vari approcci di inclusione nei vari gruppi e anche come si lavora per questo, cioè nel senso, ad esempio, quello che magari più colpisce può essere il lavoro che ha fatto la squadra palestinese, che grazie al basket ha integrato alla loro squadra, hanno integrato anche delle ragazze libanesi o siriane, ma soprattutto quelle libanesi, che pur vivendo a pochissimi metri di distanza dal campo, prima di allora non conoscevano assolutamente il campo, la situazione delle loro coetanee palestinesi, e quindi è stato un modo per entrare in contatto e conoscere nuove realtà a loro così vicine. Quindi questo, come appunto magari mi ha colpito il lavoro che fanno le americane con le bambine, o appunto il discorso in generale di fare uno sport considerato sempre molto maschile, soprattutto quando lo si fa in dei campi di strada, e quindi questo volersi riappropriare gli spazi, e nei tre contesti lo si fa in maniera differente o comunque ha una valenza differente. In che contesto vivono e praticano lo sport queste donne? Cos'è il mondo intorno a loro? Come dicevo, sono tre contesti differenti, cioè nel senso, ovviamente per una donna di Roma o una donna di New York ha un certo tipo di importanza quello di andare in un campo, in strada, insomma, con un gruppo di amiche e riuscire a prendersi una parte di campo per poter giocare, o semplicemente per potersi allenare, insomma, avviene un determinato percorso. Ovviamente quello che accadrà in un contesto libanese ha ancora più valenza, perché comunque già vedere delle donne con velo, senza velo, insomma, che però stanno lì e si ritagliano uno spazio solo per loro in un contesto arabo è molto più forte, cioè la loro sfida quotidiana è fortissima agli occhi di alcuni uomini. Fino al 3 in streaming, poi che succederà? Qual è il suo percorso? Abbiamo organizzato un'uscita in sala, proprio era tipo il 10 dicembre, quindi il giorno di quando è sul cinema, e quindi abbiamo aderito a questa iniziativa Io resto in sala, e quindi in questa sala virtuale, ormai questa è la quarta settimana, e quindi vedremo poi cosa accadrà. Speriamo presto di fare una proiezione dal vivo, magari in un contesto in cui possano partecipare anche le ragazze che hanno preso parte al documentario, e poi vedremo. Sisterhood online fino al 3 gennaio 2021. Un saluto e un ringraziamento alla regista Domiziana De Fulvio. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, grazie. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.